Eccoci, allora ciao. Dunque, direi che il corteo è appena partito, come sapete il concentramento era convocato per le 2, ma questo è un lungo corteo che deve arrivare alle 8 di stasera, perché piaceva riempire la giornata non solo con la passeggiata lungo la città, ma anche insomma per portare ognuno i propri significati, i propri contenuti, insomma la tanta differenza che indubbiamente c'è, sulla quale insomma non ci soffermiamo. Io credo che l'importante è riempire questa piazza per la Palestina, dove sebbene è forse terminata l'aggressione più vile, non c'è sicuramente una situazione di calma, adesso ci sono le azioni quelle più vili, quella falsa quiete che Israele vuol far passare per pace. Detto questo, il corteo è appena partito, ci stiamo dirigendo verso via Cavour. Io sono qui con un compagno che è lo stesso di giovani palestinesi, che ti passo perché credo niente, nessuno più di lui insomma può risottolineare le parole di questo corteo, il perché e anche che appello c'è da fare anche che arrivi in Palestina alle dirigenze palestinesi. Allora te lo passo e invito comunque a raggiungerci, ecco. Vai. Pronto? Ciao, un saluto da Radio Onda Rossa. Ciao. Grazie, ciao, buongiorno. Raccontaci un po' questo corteo. Allora, questo corteo praticamente forse l'avete sentito prima, e alcuni, non tutti ovviamente, che è stato indetto diciamo del coordinamento della comunità palestinese in Italia. Dopo quasi 3 settimane diciamo della fine dell'aggressione israeliana contro la striscia di Gaza. E questo corteo, questa manifestazione è stata indetta semplicemente per far ricordare a tutti quanti che sì, l'aggressione israeliana sulla striscia di Gaza è finita, ma la conseguenza di quell'aggressione lì non è finita ancora. Oggi ci troviamo davanti a una situazione dove ci sono oltre 4.000 case distrutte, moschee, scuole, ospitali, centri di centri sanitari, diciamo, per disabili e roba varia, ma anche prima dei cimiteri. E questo ci vuole diciamo l'aiuto e la forza di tutti quanti, di mettercelo tutti quanti insieme per poter ricostruire e contribuire a ricostruire la striscia di Gaza e fare quello possibile ovviamente. Questo è un corteo per dire che qui l'Italia, il popolo italiano insieme ai palestinesi non abbiamo scordato la questione di Gaza, anche se non, se non parla più diciamo nei media tranne alcuni mezzi mediatici. Però in generale se apri qualsiasi giornale o TV non si riparla proprio della questione palestinese più, come no, fosse non c'era no. Nulla prima. Come se non fosse questa manifestazione va verso questo obiettivo per ricordare a tutti quanti che da quanti di quell'aggressione lì ci sta ancora e vogliamo darci una mossa. È un'aggressione che dura comunque da decine di anni, insomma, non è iniziata adesso. Sì. Assolutamente, va bene, noi ti ringraziamo, direi che ci possiamo risentire durante lo svolgimento del corteo, così ci Grazie a voi, no, come grazie. Il solito siete presenti insieme a noi, non sappiamo come vi ringraziamo. È il corteo praticamente appena partito, che si sente vuole partecipare, si può trovare ancora davanti alla stazione Termini, siamo fra la Piazza Repubblica e la stazione Termini, appena proprio partito diciamo il corteo. Grazie a voi ancora e buona giornata. Buona giornata, grazie.